Innanzitutto la Turchia è il primo paese all'interno dell'Unione Europea e della NATO a cui nel 2018 l'Italia ha esportato armamenti per volumi appunto di autorizzazioni. Si tratta di 362 milioni di euro di autorizzazioni che superano forte parte anche quelle di altri paesi dell'Unione Europea, per esempio la Germania 218 milioni o la Francia 144 milioni. Cioè, detto in parole molto semplici, la Turchia è uno dei maggiori mercati di destinazione delle armi italiane. Se noi guardiamo poi non solo nel 2018 ma anche gli anni precedenti, arriviamo a qualcosa come 890 mila euro di autorizzazione e esportazione di sistemi militari negli ultimi 4 anni e di 463 milioni di consegne già avvenute. Va poi tenuto presente soprattutto un altro fatto molto importante, che negli anni scorsi, già a partire dal 2006-2007, sono state autorizzate alla Turchia l'esportazione, o meglio la produzione in loco, di elicotteri d'attacco, di fatto quelli sul modello del Gusta Westland 129, cioè del Mangusta, produzione in loco di questi elicotteri T-129 in Turchia, elicotteri che sono elicotteri d'attacco, e questi elicotteri vengono attivamente impiegati dalla Turchia in tutte le zone del conflitto e già negli anni scorsi venivano impiegati anche appunto nel Kurdistan. E questo è un grosso problema, perché proprio questi sistemi militari vengono ovviamente utilizzati in questi conflitti e saranno molto probabilmente utilizzati anche nei prossimi giorni. Per tipologia di armi è facile pensare che nell'attacco appunto in Rojava vengano utilizzate queste armi di provenienza italiana. Certamente, proprio per questo noi diciamo che occorre sospendere fin da ora tutte le esportazioni di armamenti verso la Turchia, perché occorre innanzitutto chiarire la situazione. Non è accettabile che un paese come la Turchia intervenga militarmente in quella zona senza nessun mandato e soprattutto con un chiarissimo intento di reprimere le popolazioni del Rojava, che hanno combattuto tra l'altro a fianco della coalizione internazionale in prima linea appunto per respingere e combattere l'ISIS, tra l'altro ricevendo anche armi molto di seconda mano, diciamo così, ma anche addestramento anche da parte dell'Italia. Cioè l'Italia finora ha sostenuto queste popolazioni, occorre che le sostenga ovviamente, e proprio per questo occorre che innanzitutto decreti uno stop alle forniture di armamenti alla Turchia. Segnalo che proprio in queste ore, in questo momento, la Finlandia ha già attuato questo. La Finlandia ha annunciato appunto una sospensione dell'invio di armi alla Turchia, e quindi questo significa che è possibile farlo e può farlo anche l'Italia. Nell'appello che avete rivolto al ministro degli esteri Luigi Di Maio, voi avete fatto esplicito riferimento a una legge che consente appunto lo stop. Sì, esattamente, la legge 185 del 1990, che pone come criteri per l'esportazione di armamenti e come divieti il divieto di esportare armamenti a paesi in conflitto armato. E cioè, cos'è il conflitto armato? Il conflitto armato è ogni volta che un paese interviene nel scenario internazionale senza alcun mandato da parte delle Nazioni Unite o, per quanto riguarda i paesi europei, anche da parte dell'Unione Europea. Ma questo è il punto centrale della questione, e il fatto che la Turchia sia un paese che fa parte della NATO non può assolutamente costituire un alibi per questo. E proprio perché abbiamo questa legge, abbiamo chiesto non solo al governo ma allo stesso Parlamento di prendere urgentemente in esame questa questione e di definire una sospensione immediata di armamenti verso la Turchia. Dall'inizio dell'attacco insomma di Erdogan nei confronti della Siria, nella Siria del Nord, del Rojava, ci sono state diverse prese di posizione anche internazionali, l'ONU, qualcosa anche l'Unione Europea, che è sembrata un po' timida. Però come valuti questa presa di posizione? E qui c'è sempre la questione di questo conflitto di interessi che, limitiamoci, l'Unione Europea ha nei confronti appunto di se stessa e poi di paesi come la Turchia, che in questo caso tra l'altro vengono anche utilizzati per fare contrasto alle migrazioni. Occorre che proprio per questo che l'Unione Europea e la stessa Italia riprenda quello che è il suo ruolo, ed è questo il ruolo suo specifico, quello cioè di fare in modo che delle controversie che ci possono essere a livello internazionale vengano appunto risolte non attraverso le armi ma attraverso la sede negoziale, e proprio per questo è assolutamente necessario in primissimo luogo che venga decretata una sospensione dell'invio di armi, perché questo è il fatto sempre molto chiaro, cioè che pone di fatto il tuo interlocutore di fronte ad una decisione: guarda, io ho capito la situazione, se vuoi dialogare dialoghiamo, ma fino a che non dialoghiamo e finché non discutiamo non pensare che io possa continuare a sostenerti militarmente, perché tu sei fuori dai criteri delle leggi internazionali e appunto del diritto internazionale. Questo è il punto centrale. Se non si fa questo, davvero è sempre molto timida e lascia il tempo che trova la decisione. La sospensione di invio di armi è sempre il primo passo per lanciare un segnale forte e chiaro.